Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 16 di Matteo? Capitolo 16 di Matteo. Leggerò i versetti che vanno dal 13 al 23. Così è scritto, Matteo 15, 16, capitolo 16, dal versetto 13. Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente. E Gesù replicando gli disse: tu sei beato, Simone, figliolo di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: tolga ciò e Dio, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Dunque, da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Quindi Gesù sapeva che doveva essere ucciso, lo sapeva e lo disse. Lo sapeva perché egli era il Cristo e il Dio aveva preannunziato per bocca dei suoi profeti ab antico che il Cristo doveva essere ucciso. Infatti, leggendo il profeta Isaia, ecco appunto che cosa troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, capitolo 53, versetto 5. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Dunque, il Cristo che doveva venire nel mondo doveva morire ucciso. Doveva morire ucciso perché egli doveva morire immolato per i nostri peccati, affinché si adempissero le scritture. Questo è di fondamentale importanza tenerlo a mente quando si parla di Gesù o della messianità di Gesù. Perché dico questo? Perché molti, anche in ambito evangelico, non credono che Gesù doveva essere ucciso. non lo credono affatto, perché non credono nell'Evangelo. Addirittura ci sono quelli che dicono che Gesù poteva anche non morire. Non era obbligato a morire per noi. Questo è qualche cosa che subentrò poi in seguito per, diciamo, svariate circostanze. Quindi loro dicono che la morte di Gesù era evitabile. Come si può accettare veramente una tale cosa quando Gesù stesso disse che doveva essere ucciso? Non possiamo assolutamente accettare una simile cosa. E infatti la rigettiamo, la smascheriamo e la confutiamo. Dunque, il Cristo venne nel mondo per soffrire. Infatti, l'Apostolo Paolo, quando si recava nelle sinagoghe dei giudei, che cos'è che predicava? Predicava l'Evangelo, traendo i suoi ragionamenti dalle scritture profetiche. Infatti, per esempio, guardate nella sinagoga di Tessalonica che cosa diciamo disse. Al capitolo 17 degli Atti degli Apostoli troviamo scritto quanto segue. Ed essendo, dal versetto 1, ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, vennero a Tessalonica, dove era una sinagoga dei giudei, e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro per tre sabati, tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io v'annunzio. Quindi, vedete, anche qui l'Apostolo Paolo conferma che il Cristo doveva soffrire, quindi doveva morire. Fratelli, è un dato di fatto. Lo ribadisco per l'ennesima volta. Gesù Cristo doveva essere ucciso e discese dal cielo, il figliolo di Dio discese dal cielo per essere ucciso. Infatti lui sapeva esattamente quello a cui stava andando incontro, e la conferma appunto la troviamo in Matteo al capitolo 16 nelle parole che vi ho letto all'inizio. Ma al capitolo 17 di Matteo troviamo sempre un'altra conferma. Infatti è scritto: come essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno, e al terzo giorno risusciterà. Vedete che ancora una volta che Gesù di che cosa parla? Parla della sua morte per uccisione. Voglio ricordarvi a tale proposito, quindi sempre in merito alle sofferenze del Cristo che doveva patire, e quindi in merito alla sua morte, che Gesù, quando apparve a quei due che stavano andando a un villaggio chiamato Emmaus, Gesù a un certo punto disse loro: non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Vedete? Gesù rimproverò quei due suoi discepoli perché non avevano creduto erano stati tardi di cuore, per usare l'espressione giusta, a credere a tutte le cose che i profeti avevano detto. Infatti Gesù disse loro, poco prima, immediatamente prima, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Vedete, quindi Gesù stesso, dopo la sua resurrezione, quando apparve, confermò che egli era venuto nel mondo per soffrire. Doveva soffrire prima di entrare nella sua gloria. Quindi, il Cristo che doveva venire nel mondo doveva essere ucciso. Doveva, infatti, morire per i nostri peccati. Egli era l'agnello di Dio, che doveva essere immolato per la propiziazione dei nostri peccati, per compiere l'espiazione dei nostri peccati mediante lo spargimento del suo prezioso sangue. Ora, Gesù sapeva che sarebbero stati i giudei a ucciderlo. Lo sapeva, sì. E questo emerge anche dalla parabola dei cattivi vignaiuoli. Al capitolo 21 di Matteo, infatti, leggiamo quanto segue. Dal versetto 33, udite un'altra parabola, vi era un padron di casa, il quale piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo da spremere l'uva e vi edificò una torre, poi la allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. Or, quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori, presi i servitori, uno ne batterono, uno ne uccisero e un altro ne lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori il maggior numero dei primi e coloro li trattarono nello stesso modo. Finalmente mandò a loro il suo figliolo dicendo avranno rispetto al mio figliolo. Ma i lavoratori, veduto il figliolo, dissero tra di loro costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. E presero, lo cacciarono fuori della vigna e l'uccisero. Quando dunque sarà venuto il padrone della vigna, che farà egli a quei lavoratori? Essi gli risposero, li farà perire malamente, codesti scellerati, allogherà la vigna ad altri lavoratori, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Gesù disse loro, non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno riprovata, e quella che è divenuta la pietra angolare, cioè è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Ciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato. Ed ella stritolerà colui sul quale cadrà. E i capi sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, si avvidero che parlava di loro e cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe che lo tenevano per profeta. Ora, notate come i capi sacerdoti e i farisei capirono che Gesù parlava di loro. Sì, parlava proprio di loro, gli edificatori. Gli edificatori che rigettarono la pietra eletta e preziosa. Rigettarono la pietra che poi è diventata la pietra angolare. E ricordiamoci che tutto ciò è stato fatto dal Signore. Anche il rigetto della pietra angolare da parte degli edificatori fa parte infatti del piano di Dio, da Lui preordinato, da Lui formato in se stesso. Dunque vedete, in questa parabola c'è scritto che il padron di casa finalmente mandò loro il suo figliolo, dicendo: avranno rispetto al mio figliolo. Ma i lavoratori, veduto il figliuolo, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. E presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Gesù con questa parabola preannunciò, appunto sotto forma di parabola, che lui, che era il figlio di Dio, sarebbe stato ucciso. Ucciso, sì, dagli edificatori, che erano giudei. Infatti saranno loro che davanti a Ponzio Pilato gridarono: crocifiggilo, ossia crocifisso. E benché Ponzio Pilato volesse liberarlo inizialmente, perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, alla fine sentenziò che fosse fatto quello che domandavano con grandi grida, appunto, i giudei. Dunque, Gesù, il Cristo, doveva essere ucciso dai giudei e doveva essere ucciso non in una qualsiasi maniera, ma in una maniera particolare, per mezzo della crocifissione. Quindi non per lapidazione, come erano usi fare, no? Gli ebrei, secondo la legge di Mosè, dovevano per esempio lapidare i bestemmiatori. No, il Cristo doveva essere appeso al legno, non ad un palo, ma ad una croce. E badate bene che anche questo Gesù lo sapeva. E infatti predisse anche il modo in cui sarebbe stato ucciso dai giudei. Leggiamo infatti al capitolo 14, quando Gesù si trovò davanti a Ponzio Pilato, avvennero, come voi sapete, diverse cose molto, molto interessanti e che sono utili a sapersi, che appunto sono state trascritte. E che cosa leggiamo al capitolo 12? A capitolo 12 di Giovanni, leggiamo quanto segue, capitolo 12, versetto 30. Ascoltate che cosa c'è scritto. Gesù rispose e disse: questa voce non si è fatta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Così diceva per significare di qual morte doveva morire. Ora, al capitolo 18, sempre di Giovanni, al versetto 31, leggiamo quanto segue. Qui, naturalmente, Gesù si trova davanti a Ponzio Pilato. Allora, partiamo da prima, va? Così almeno leggiamo tutto nel contesto. Allora, capitolo 18, versetto 28. Poi da Caia famigliarono Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso di loro e domandò: quale accusa portate contro quest'uomo? Essi risposero, gli dissero: se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani. Pilato quindi disse loro: pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, significando di qual morte doveva morire. A parte il fatto che qui non è vero che ai giudei non era lecito far morire alcuno, perché secondo la legge di Mosè, gli era lecito far morire le persone, mettere a morte delle persone, per naturalmente determinati peccati, come per esempio il peccato di bestemmia. Era punito con la morte, con la lapidazione. Però attenzione, qui si doveva adempiere la parola che Gesù aveva detta, significando di qual morte doveva morire. E appunto io questa parola ve l'ho letta perché quando lui disse le parole di Gesù, appunto, con cui lui previde la morte che doveva fare, sono queste: e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Ora, marcatevi queste parole: quando sarò innalzato dalla terra. Perché? Perché appunto queste parole confermano che Gesù doveva essere appeso ad una croce. Infatti, che cosa leggiamo in Giovanni? Sempre in Giovanni, ascoltate, capitolo 3 di Giovanni. Gesù disse, capitolo 3, versetto 14: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Notate ancora una volta qui il verbo innalzato, sia innalzato. Allora, Mosè innalzò il serpente nel deserto. Voi conoscete la storia. Il popolo mormorò, parlò contro Dio e contro Mosè, e il Signore mandò dei serpenti tra il popolo, dei serpenti ardenti, dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente e tanti israeliti morirono. Allora il popolo che cosa fece? Venne a Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te, prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. A questo punto c'è scritto quanto segue, leggo da Numeri capitolo 21, versetto 8. E l'Eterno disse a Mosè: fatti un serpente ardente, mettilo sopra un'antenna, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame, lo mise sopra un'antenna, e avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Dunque, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, significa che Mosè pose un serpente di rame sopra un'antenna, e lo fece per ordine di Dio, affinché gli israeliti che venivano morsi dai serpenti, guardando quel serpente, scampavano dalla morte. Quindi vedete che Mosè fece un serpente di rame, lo pose sopra un'antenna. Ora Gesù fu posto sopra una croce o sopra un legno. Così egli fu innalzato dalla terra. E infatti Gesù poi fu, crocifisso. Fu posto su una croce, crocifisso, in mezzo a due malfattori. E anche questo affinché si adempissero le scritture. Quindi vedete che Gesù predisse anche il tipo di morte che doveva fare. Gesù, quindi, essendo il Cristo che doveva essere trafitto, non poteva morire, per esempio, lapidato. doveva morire trafitto. Peraltro vi ricordo che Gesù rischiò di essere messo a morte per lapidazione dai giudei, però l'ora sua non era ancora venuta e quindi non poteva morire in quella circostanza in quel modo. Vi ricordate quando Gesù disse ai giudei prima che Abramo fosse nato io sono? Che cosa c'è scritto? Allora dicessi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal Tempio. Vedete dunque? Ci furono tentativi da parte dei giudei di ucciderlo prima del tempo, ma furono tentativi che fallirono, perché ancora non era giunto il tempo prestabilito da Dio. Anche quando Gesù disse loro io e il Padre siamo uno, avvenne che i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Anche lì, vedete, fu vicino alla lapidazione Gesù. Però, vedete, scampò. Ma che vi dirò di più? Vi dirò che lui rischiò di essere ucciso, di essere messo a morte, da parte degli ebrei a Nazaret, all'inizio del suo ministero. E infatti, dopo che Gesù parlò nella sinagoga di Nazaret, dopo che era stato unto di Spirito Santo e di potenza, la scrittura dice che Gesù nella potenza dello Spirito se ne tornò in Galilea, la sua fama si sparse per tutta la contrada e circonvicina e insegnava nelle loro sinagoghe glorificato da tutti. E venne a Nazaret dove era stato allevato e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga e alzatosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri, dei ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'accettevole del Signore. Poi chiuse il libro e resolo all'inserviente si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui ed egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura e voi l'udite. E tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. E dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi, vi dico in verità che ai dì di Elia, quando il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi, vi fu gran carestia in tutto il paese. C'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandata Elia, ma fu mandata a una vedova in Sarepta di Sidon. E al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, ma lo fu Naaman il Siro. E tutti nella sinagoga furono ripieni di ira all'udire queste cose. E levatesi lo cacciarono fuori della città e lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù, ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Vedete come Gesù rischiò la vita, fu vicino alla morte, bisogna dirlo, però il Dio lo scampò. Non era ancora arrivato il momento, perché per ogni cosa aveva il suo momento, Dio ha stabilito anche il momento della morte, ma non solo, ha stabilito anche e il modo in cui uno deve morire. Per quanto riguarda il Cristo, Dio aveva stabilito che doveva essere crocifisso e così avvenne. Egli fu crocifisso. E tutto questo affinché si adempissero le scritture. Leggiamo in Matteo alcuni versetti dopo la sentenza emanata da Ponzio Pilato, il governatore, che lo consegnò nelle loro mani perché fosse crocifisso. Allora, Al capitolo 27, a partire dal versetto 27, leggiamo: allora i soldati del governatore Tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto. E intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna nella sua man destra. Inginocchiatesi dinanzi a lui, lo beffavano dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E sputatogli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo menarono via per crocifiggerlo. Or nell'uscirono trovarono un cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle bere. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando a sorte. E postisi a sedere, gli facevano quivi la guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna. Questo è Gesù, il re dei Giudei. Allora furono con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. Dunque vedete come quello che il Dio aveva preannunziato per bocca dei suoi profeti. Peraltro ci sono delle parole nel Salmo 22 che sono eloquenti e molto significative, che confermano appunto che Gesù doveva essere crocifisso. Infatti Davide, perché l'autore di questo Salmo è Davide, per lo Spirito disse, Salmo 22, versetto 16: «Poiché cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi». Notate. Infatti, Gesù, quando poi risusciterà apparirà ai suoi discepoli, mostrerà appunto le sue mani e i suoi piedi. Infatti c'è scritto in Luca, capitolo 24, dal versetto 36, or mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io. Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Perché mostrò loro le mani e i piedi? Perché nelle mani e nei piedi aveva il segno dei chiodi. Qualcuno dirà: «Ma era risuscitato, apparve con un corpo, incorruttibile, glorioso, potente, immortale». Sì, però il Dio ha voluto che quei segni rimanessero nel suo corpo, altrimenti non avrebbe senso che ci sia scritto: detto questo mostrò le mani e i piedi. Quindi Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ora è alla destra di Dio, dove intercede per noi, ha nelle mani e nei piedi i segni dei chiodi, quei segni che lui ricevette quando fu crocifisso, affinché si adempissero le scritture. Quindi, quando noi annunziamo l'Evangelo, annunziamo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Naturalmente, noi ci teniamo a specificare che appunto egli morì per i nostri peccati ucciso. Quindi state molto attenti a quelli che dicono che Gesù non è stato ucciso o non è stato ucciso da nessuno, perché essi sono dei bugiardi. Sono dei bugiardi, sono persone riprovate quanto alla fede, che contrastano la verità e che appunto, dicendo che Gesù non è stato ucciso o non è stato ucciso da nessuno, vogliono fare passare, diciamo, la morte di Gesù per un suicidio, perché è questo a cui loro mirano. Peraltro, la menzogna che Gesù si sia suicidato esiste già nel mondo, solo che ancora in tante chiese non viene insegnata apertamente, però è stato ormai introdotto in maniera subdola, di soppiatto, in questa maniera, dicendo appunto no, Gesù non è stato ucciso. Come non è stato ucciso? Ma allora gli apostoli che facevano? Vaneggiavano quando predicando dicevano ai giudei parole tipo l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in mano di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo ed il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida? E uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, del che noi siamo testimoni. Dico, vaneggiavano allora, qui è Pietro che appunto parlò al popolo a Gerusalemme, vaneggiava l'apostolo Pietro quando disse agli ebrei a Gerusalemme che voi uccideste il principe della vita? Vaneggiava, no, Pietro non vaneggiava, vaneggiano questi qua. Farneticano questi qua che dicono che Gesù non è stato ucciso o che non è stato ucciso da nessuno. E che dire quando Pietro, il giorno della Pentecoste, del giorno della Pentecoste nell'ambiente pentecostale si conosce molto bene quello che avvenne, ma non quello che Pietro predicò, cioè, ossia il messaggio rivolto agli ebrei. Perché tutti sanno che in quel giorno i circa 120 furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi, ma quasi nessuno sa che Pietro, quel giorno, rivolgendosi agli ebrei, disse loro: uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ecco, queste parole qui sono sconosciute, quasi sconosciute nell'ambiente pentecostale anche in Italia. Chissà perché? Ma come mai? Come mai? Eppure l'apostolo Pietro aveva davanti ebrei. Ebrei aveva davanti. Guardate, ripieno dello Spirito Santo, con quale coraggio, con quale franchezza gli disse: voi per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Invece oggi che cosa succede? Succede che dal pulpito si sente dire a determinati sedicenti pastori evangelici, davanti a degli ebrei non convertiti, gli si sente dire che Gesù non è stato ucciso dagli ebrei. E da chi? Sono arrivati a dire che è stato ucciso da delle persone del sud Italia. Cioè, ci rendiamo conto che cosa si inventano qua? Secondo degli studiosi. Ma quali sono questi studiosi? Nome e cognome fate. Ma studiosi di che? Studiosi del nulla. Proclamiamo quello che dicevano gli apostoli, non quello che dicono sedicenti studiosi che sicuramente sono massoni. Perché i massoni sono proprio addestrati ad attaccare sia la morte espiatoria di Cristo che anche la sua risurrezione. Che proprio attacchi che si stanno moltiplicando oramai in questi ultimi decenni in mezzo alle chiese, comprese quelle pentecostali. Dico io, Gesù quindi, secondo questi degli studiosi, fu ucciso da delle persone del sud Italia. Ma veramente, quando ho sentito questa ennesima eresia mi sono messo a ridere. mi sono messo a ridere, sto ancora ridendo. Ma come si fa? Ma come si fa ad affermare una simile scelleratezza quando la scrittura dice chiaramente chi furono coloro che uccisero il nostro Signore Gesù Cristo? Ricordate l'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, per noi caro, ma per molti non è nemmeno un fratello. Sapete che l'Apostolo Paolo è uno degli uomini più odiato in seno all'ambito evangelico, compreso quello pentecostale. È odiatissimo l'Apostolo Paolo, perché Paolo era un antisemita. Paolo era un antisemita perché scrisse queste parole molto dure contro i giudei, le scrisse ai santi di Tessalonica. Ma guarda un po', dicono costoro, che cosa si è permesso di dire Paolo, dei nostri fratelli giudei. Loro, per loro, sono fratelli, gli anticristi sono fratelli loro, capite? Ci camminano assieme, hai capito? Come se niente fosse. Certo, anche loro non credono nell'Evangelo, quindi si trovano bene con i giudei che negano che Gesù è il Cristo. Ascoltate l'Apostolo Paolo, perché fratelli, voi siete divenuti imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno cacciato noi, non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati. Essi vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Che dire allora? Paolo, antisemita, ormai Paolo è diventato pure un antisemita, ma pure io sono antisemita, assieme a Paolo. Avete capito? Mi definiscono antisemita. Persone che si definiscono evangeliche, ma io veramente, cioè, mi viene da ridere, credetemi, cioè, quando vengo definito antisemita mi viene da ridere. Io confuto i giudei dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo, dico sui giudei quello che dice la Sacra Scrittura. Se Dio chiama il popolo dei giudei un popolo di collo duro, io com'è che lo devo chiamare, un popolo di collo molle, come lo devo chiamare? Io lo chiamo come lo chiama il Signore Dio, Ma io sarei allora un antisemita, sarei un antisemita perché poi attribuisco la morte di Gesù agli ebrei. Ma no, ma cosa stai dicendo? Io sto dicendo quello che dicevano gli apostoli. Vabbè, poi sarei un antisemita anche per altre ragioni, perché non sono schierato politicamente a favore dello Stato di Israele, qualunque cosa esso faccia. Cioè io dovrei scrivere a favore, delle uccisioni, da parte degli ebrei dei palestinesi, no? E dovrei naturalmente stare zitto sui morti palestinesi. Allora, dato che io non mi occupo di politica, ma soprattutto dato che io conosco la storia di Israele, la storia degli ebrei, la conosco, sia quella antica che quella moderna, e siccome che queste guerre, lo ribadisco per l'ennesima volta per quelli che magari ancora non l'hanno capito, allora, avendo studiato anche la storia moderna del popolo, del moderno Stato ebraico, io so che queste guerre tra ebrei e arabi, ebrei e palestinesi, che poi i palestinesi sono i discendenti dei filistei, perché gli abitanti della striscia di Gaza non sono altro che i discendenti degli antichi filistei. Ora, queste guerre ci sono sempre state. Queste guerre che poi naturalmente comportano uccisioni, devastazioni da ambo e due i lati, ci sono sempre state. Periodicamente scoppiano queste guerre, ma d'altronde anticamente, prendiamo per esempio adesso prendiamo la guerra degli ebrei contro i palestinesi, cioè contro i filistei, o prendiamo anche gli attacchi dei palestinesi contro gli ebrei, no? Vi ricordo sempre, i palestinesi sono filistei. Queste guerre anticamente, ma vi ricordate che c'erano? Vi ricordate? Sono antiche queste guerre, non è che sono di ieri. Allora, i morti sono morti. Non importa se sono ebrei o palestinesi o filistei, sono sempre morti. E siccome che noi siamo contrari alle guerre, alle uccisioni, siamo contrari, non importa quale sia la parte, se siano i filistei che ammazzano gli ebrei o gli ebrei che ammazzano i filistei, noi non parteggiamo per l'uno né per l'altro. Anche perché voglio ricordarvi che il Dio nell'antichità usava i filistei per punire gli ebrei. Ve lo siete dimenticati questo? Come ha usato anche altre nazioni. Quindi bisogna parlare anche di questo, ma di questo molti non vogliono parlare, vogliono nascondere quello che dice la Sacra Scrittura. Quante volte c'è scritto che Dio diede nelle mani dei suoi nemici gli israeliti, gli ebrei? Quante volte? E perché lo fece? Per punirli, per le loro malvagità. Che dire quando il Signore chiamò Nebuchadnezzar da un paese, da Babilonia, col suo esercito, per andare e distruggere Gerusalemme, per uccidere anziani, donne, bambini, per fare uno sterminio? Ma vi siete dimenticati queste cose? E per portare in cattività tanti ebrei, per distruggere il Tempio, per distruggere le mura. Ma ve le siete dimenticati queste cose? Sono cose che sono scritte e che peraltro gli ebrei ricordano periodicamente e riconoscono che quelle cose gli sono avvenute perché Dio è giusto, perché li ha puniti a motivo dei loro peccati. Allora, vogliamo pure parlare di quando Dio usa gli eserciti stranieri per punire gli israeliti o non ne vogliamo parlare? Io ne parlo tranquillamente. Perché io proclamo ciò che è giusto. E allora, però, da qui a prendermi per un antisemita, perché non prendo posizione contro quel gruppo terroristico palestinese. Ma dico io, ma noi siamo contro le uccisioni, siamo contro l'uccidere, ma noi siamo persino contro l'andare in guerra da parte di un credente in difesa della propria nazione. Noi siamo contrari, assolutamente. I credenti in Italia, se scoppia una guerra, se vengono chiamati in guerra ad uccidere, non devono andare. Per cui figuriamoci se io prendo posizione a favore diciamo, della guerra di Israele contro i filistei, ma figuriamoci, siamo contro la guerra, anche un'eventuale guerra degli italiani contro un'altra nazione. Però costoro, siccome che sono accecati dalle tenebre, e a loro non interessa effettivamente la salvezza degli ebrei, non gli interessa, ma nemmeno la salvezza dei filistei gli interessa a questi, Invece a noi interessa sia la salvezza degli ebrei che la salvezza dei filistei, e preghiamo sia per i peccatori filistei, palestinesi, e sia per i peccatori ebrei, preghiamo per loro affinché il Signore li salvi. Sì, questa è la nostra preghiera, questo è il nostro desiderio, ma per il resto noi siamo assolutamente contro l'uccidere, non solo da parte di fazioni di palestinesi, fazioni terroristiche come vengono chiamate, no, anche da parte di eserciti regolari. Infatti, ve lo ripeto, i cristiani devono essere contro la guerra e se lo Stato li chiama ad andare in guerra devono rifiutarsi, come si rifiutarono tanti nostri fratelli, quando scoppiò la prima guerra mondiale, molti non lo sanno perché non conoscono la storia del movimento pentecostale, molti si rifiutarono, tantissimi nostri fratelli pentecostali, non dico tutti perché alcuni partirono per la guerra purtroppo, ma moltissimi fratelli nostri pentecostali si rifiutarono di andare in guerra, sì, nella prima guerra mondiale, e si fecero naturalmente un bel po' di periodo ai lavori forzati, nei campi di lavoro e così via. Studiate la storia del movimento pentecostale, approfondite la storia del movimento pentecostale, poi vedrete che effettivamente all'inizio il movimento pentecostale era contro l'andare in guerra. Poi però quando arrivò la seconda guerra mondiale, lì già il cambiamento era abbastanza già marcato, perché appunto in circa 30 anni la massoneria aveva lavorato dentro il movimento pentecostale e già le denominazioni, diciamo per esempio come le assemblee di Dio americane, erano a favore della guerra, ad andare ad ammazzare per esempio i tedeschi. Questa è la verità. E infatti avevano cappellani militari pentecostali dell'assemblea di Dio e si vantavano, ne avevano. Sui loro giornali apparivano, sui loro magazine, apparivano le foto di questi cappellani militari, e si vantavano di avere questi cappellani militari, e si vantavano anche di avere migliaia di soldati delle assemblee di Dio americane nell'esercito anglo-americano, si vantavano, una vergogna. Una cosa orrenda, peraltro furono poi molti anche i pentecostali, i soldati, diciamo, americani delle assemblee di Dio a morire sul campo di battaglia. Anche questo, andate a studiarle queste cose. Però anche in quel periodo, nonostante oramai le assemblee di Dio, diciamo, americane ormai capeggiavano il movimento pentecostale da tempo, quindi purtroppo avevano, come si suol dire, rotto il ghiaccio, avevano introdotto questo cosiddetto patriottismo, però ci furono anche nelle stesse assemblee di Dio americane persone che per obiezione di coscienza, rifiutarono di accettare di andare in guerra e si fecero appunto i lavori forzati. In America sì. Proprio così, sì, ma oggi figuriamoci, qui il discorso è molto più complesso, dietro c'è praticamente una chiesa guerra fondaia, le chiese pentecostali sono guerre fondaie, altro che, ma quale pacifismo, ma quale procacciare la pace, ma quale non uccidere, a loro non gli interessa proprio niente questo. Ma figuriamoci, sono pronti ad andare a ammazzare in un'altra nazione questi. Sono pronti, si dicono pentecostali, sono pronti ad andare a ammazzare e quindi a violare il comandamento di Dio. Allora non gli interessa quello che dice Dio. Alcuni addirittura sono pronti ad andare ad imbracciare le armi per andare ad ammazzare i palestinesi. Ma ci rendiamo conto? La follia ha colpito proprio la mente di tanti pentecostali. Assurdo, imbraccerebbero le armi per andare ad ammazzare i palestinesi. Ma ci rendiamo conto? Una vergogna. Cioè, praticamente il problema qua non è, cioè, sì, chiaramente c'è anche il sionismo cristiano e così via, ma il problema, fratelli nel Signore, è più, diciamo, profondo. C'è un desiderio di uccidere il prossimo nelle chiese pentecostali. Sono pronti a partire per il fronte, andare ad ammazzare il loro prossimo, tanti sedicenti pentecostali. Mettiamo da parte per un momento la guerra che c'è tra Israele e i palestinesi, o tra Israele e l'Iran. Mettiamo da parte questo, perché è fumo negli occhi. Qui c'è un popolo di pentecostali che hanno rigettato la parola di Dio, che lottano contro Dio, che sono veramente persone riprovate quanto alla fede. Capite? Avete capito? E questo vedrete che verrà fuori se dovesse l'Italia entrare in guerra, ma proprio in una guerra, diciamo, mettiamo così, in una guerra mondiale. Voi vi ricorderete di quello che vi sto dicendo. Le denominazioni pentecostali saranno in prima linea a dire sì, mandiamo i nostri giovani al fronte per ammazzare questi, per ammazzare quest'altro, perché queste cose già si sono verificate. Avranno i loro pastori là che si occuperanno, i cappellani militari, e ce l'avranno pure loro, certo. I valdesi già ce l'hanno, da una vita ce l'hanno, e poi arriveranno pure i cappellani pentecostali italiani. Ma è così, è un popolo che ama la morte, non la vita, e infatti ormai molti pentecostali sono a favore anche dell'aborto, Cioè, guardate, ascoltatemi, è tutto fumo negli occhi il fatto lì di quello che sta succedendo in Medio Oriente, perché c'è molto di più, c'è un marciume che voi nemmeno immaginate. Le denominazioni sono legate allo Stato, sono pronte a mandare i loro giovani a morire, per che cosa? Per un territorio, per una bandiera. Nessuno si azzarderebbe a morire per Cristo, ma però per la propria nazione gli dicono sì, devi andare, e qui e là, capite? Ma magari, Dio volendo, un giorno ci ritornerò su questo argomento. Ho aperto questa parentesi perché Dio ha voluto così. Non avevo proprio nessuna... Non era previsto nella maniera più assoluta che vi parlassi di questo, però sono veramente schifato, nauseato, inorridito nel vedere veramente questo movimento pentecostale guerrafondaio. Ah, mi fa orrore! Hanno rinnegato, come si dice, i loro fondatori. E poi si riempono la bocca di che cosa? Di versetti come Dio amore, razza di ipocriti, ma verrà il giorno che anche, diciamo, su questo fronte sarete smascherati tutti quanti, come è avvenuto quando ci fu la cosiddetta pandemia, che subito le denominazioni si schierarono a favore, appunto, del cosiddetto vaccino, che era un siero sperimentale che ha fatto morire tante persone, sta facendo morire ancora tante persone, che ha fatto dei danni terribili in tante persone, paralizzandole e così via. Noi non è che abbiamo dimenticato che cosa è avvenuto, Non abbiamo dimenticato questi cosiddetti pastori malvagi, corrotti, Subito si sono schierati a favore del cosiddetto vaccino anti-Covid. Addirittura c'erano quelli che pregavano Dio di fare inventare un vaccino contro il cosiddetto Covid. Vergogna, vergogna. Ecco perché vi continuerò veramente a gridare di uscire e separarvi da queste denominazioni, che sono veramente tutte in mano alla massoneria, che hanno rigettato i comandamenti del Signore. E quindi, vedete? L'Apostolo Paolo ha confermato che i giudei uccisero il Signore Gesù Cristo, come peraltro uccisero anche i profeti prima di Gesù, gli ebrei, sì, gli ebrei hanno ucciso i profeti, ma Gesù queste cose le sapeva, Gesù queste cose le sapeva. E infatti basta vedere Gesù come si è rivolto a quegli ebrei che lo rigettavano per capire che cosa sono realmente gli ebrei che negano che Gesù è il Messia. Quindi, fratelli nel Signore, vi ho voluto parlare appunto della morte del Signore Gesù Cristo, perché è bene ricordarvi cose che voi sapete e che sono molto, molto importanti. Sono cose molto importanti, come vedete sono tutte cose scritte, quelle che vi ho detto in merito alla morte di Gesù. Quindi ritenetele, perché vi saranno utili nella vostra lotta in difesa dell'Evangelo, visto e considerato che oramai per molti Gesù non è stato ucciso, o meglio, non è stato ucciso da nessuno. Quindi vi ho voluto ricordare appunto che Gesù, il Cristo, doveva essere ucciso dai giudei, e infatti fu ucciso. Ma tutto questo faceva parte del piano formato da Dio in se stesso, secondo cui appunto il Cristo doveva morire per i nostri peccati. Quindi vedete, Dio ha, diciamo, diretto i cuori anche dei potenti di allora, non solo del popolo di Israele, ma anche del re Erode, anche di Ponzio Pilato, affinché a Gesù, diciamo, accadesse quello che era stato preannunziato e prestabilito da Dio. è in vero in questa città. Ricordate queste parole? Capitolo 4, versetto 27. Fanno parte di una preghiera che i discepoli del Signore elevarono a Dio a Gerusalemme. E in vero in questa città contro al tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Qualcuno potrebbe dire più chiaro di così, eppure nonostante sia così chiaro molti appunto si rifiutano di credere che quello che fu fatto a Gesù, quindi anche, diciamo, voglio dire, il fatto che lui fu ucciso dai giudei, fu qualcosa che il Dio aveva innanzi determinato che avvenisse. Molti non credono a quello che dice la Scrittura. Per molti la Bibbia è un libro di favole, ricordatevelo, per molti evangelici la Bibbia è un libro così, un libro, come un romanzo, così. Non è la parola di Dio. Ha voglia dire nel loro credo, crediamo che la Bibbia sia, ma no, ma non è vero, ma non ci credono che la Bibbia sia la parola di Dio. Ma infatti quando uno si trova a parlare con loro, noti che veramente non credono in questo, non credono in questo, non credono in questo. In che cosa credono? In che cosa credono questi qua? Abbiamo capito una cosa. Questi non credono nell'Evangelo, infatti con loro non abbiamo comunione. Non abbiamo comunione. Quindi, fratelli nel Signore, ritenete quello che dice la Sacra Scrittura, ritenetelo fermamente quello che dice la Sacra Scrittura in merito alla morte del Signore Gesù Cristo, che è parte dell'Evangelo. Non ascoltate quelli che dicono che la croce non è l'Evangelo. Quelli sono anticristi. Vi ricordo infatti l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo e che trasmetteva sia giudei che gentili. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Queste parole sono scritte da Paolo nella sua prima Epistola ai Santi di Corinto. Questo è l'Evangelo. Come potete vedere, l'Evangelo comprende la morte espiatoria di Cristo Gesù sulla croce avvenuta. Quindi, ritenete fermamente ciò che è scritto e non vi fate sedurre da vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.